sono le ore 9 e 3 minuti di giovedì 14 marzo 2024 e scopro che c'è un interesse per le cose che ascolto nell'autoradio quando mi sposto, come adesso. E arrivano domande del tipo: ma come mai ascolti sempre queste radio come Rai Classica, credo che si chiami Rai Radio 3 Classica, hanno cambiato nome varie volte, una volta erano il quinto canale della filodiffusione, che però in alcune città si poteva ascoltare in modulazione di frequenza, oppure anche la BBC, no? Il BBC World Service si può ascoltare in DAB praticamente ovunque in Italia. Ma la risposta in realtà non riguarda necessariamente una particolare passione né per le notizie in inglese né per la musica classica. In realtà io mi ritrovo ad ascoltare queste cose in auto quando non ho il telefono collegato col Bluetooth, quindi sto ascoltando altre cose che ho messo da parte, diciamo. Il famoso listen later, no? Che uno può impostare su tantissime piattaforme. Ascolta più tardi, esatto. È un po' come il guarda più tardi di YouTube. Secondo me è molto utile, perché il fatto di mettere da parte le cose ti dà quel minimo di tempo di riflessione, no? E quindi non diventa mai un ascolto compulsivo. Però adesso, al di là del Bluetooth, chiaramente quando non ho in quel momento, per esempio in un tragitto breve come questo, nulla di pronto, e la radio che ascolto è questa per un motivo molto semplice: perché non c'è la pubblicità, e sono delle eccezioni, no? La BBC nel suo contratto di servizio non prevede la pubblicità, invece la Rai la prevede praticamente ovunque tranne sui cosiddetti canali di pubblica utilità, che sono Isoradio e appunto il canale della musica classica. E questo fa davvero tutta la differenza del mondo, perché è sempre più doloroso, in un'epoca in cui possiamo scegliere, dover ascoltare un'inserzione pubblicitaria, soprattutto nel luogo dove abbiamo meno opportunità, diciamo, di saltarla, cioè appunto l'automobile, che come tutti sapranno è anche il luogo in cui la radio riesce a sopravvivere e a fare il suo business. E il fatto stesso, devo dire, che in qualche modo lo Stato ancora assicuri alle persone un canale di musica sicuramente anche molto molto ben selezionata, perché Radio 3 Classica non fa mai offerte scontate, no? Un po' come accade per esempio invece col canale DAB Radio Classica del gruppo Class, che è un'altra cosa, cioè anche lì è meritorio perché fanno musica classica, però sono, diciamo, i grandi successi della musica classica. Invece qui si possono scoprire un bel po' di cose nuove e anche sviluppare una passione, come piano piano anche, insomma, una persona che ascolta di solito altre cose come me sta sviluppando. Io temo soprattutto che se ci abituiamo all'idea che la pubblicità è qualcosa di inesorabile, i due messaggi, quello pubblicitario e anche quello che non è pubblicità, cioè il programma radiofonico, cominciando a somigliarsi sempre di più, a contaminarsi, ed è sempre la pubblicità a dettare ritmi, tempi, veemenze all'eloquio della trasmissione radiofonica e quindi a renderla tossica. Ascoltare la BBC o Radio Classica magari non è qualcosa che faremmo così in automatico, però ti dà semplicemente l'idea di un'alternativa, cioè che un altro mondo è possibile e si può tornare a respirare aria migliore.